quando vivevo a Roma la metropolitana era un po' il mio pane quotidiano praticamente. Da giovane in particolare ci attraversavo praticamente mari e fiumi, facevo praticamente tutto quanto con la metropolitana. Un giorno è capitato che, e non so se ve l'ho già raccontato, è capitato che durante l'arrivo a una delle stazioni è scattato per la prima volta dopo tanto tempo, anzi per la prima volta proprio in assoluto, l'avviso della fermata. Fermata Re di Roma, prossima fermata San Giovanni. Per me sembrava una cosa rivoluzionaria, queste cose le avevo viste solo nelle grandi città europee. Un momento di grande entusiasmo aveva colto praticamente la mia anima, fin quando la persona che stava vicino a me ha detto: "Ah, oh, ma che siamo deficienti che non sappiamo riconoscere le fermate". Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Quando andate alla fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Mo te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! Belli de casa, buongiorno un cazzo a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del giovedì, dove il sonno continua a prevalere sulla mia esistenza, ma le cose stanno migliorando e questo è dovuto, insomma, azioni concrete che stiamo cercando di mettere in atto, anche se con diverse svarianze, cioè tipo scivolate, smarcate sulla destra e sulla sinistra, ma ce la faremo, perché il nostro impegno, la nostra missione, un giorno ci riusciremo. Detto questo, prima di parlare di cosa di cosa tratteremo in questo episodio, anche se penso che la premessa un po' vi possa aver fatto comprendere, insomma, quello che è il tema, il motivo per cui incazzarsi anche oggi, insomma, anche oggi, ieri in realtà, anzi ancora meglio l'altro ieri, ma in realtà capirete anche quanto questa cosa è più generale di quanto possa non sembrare. E vi do appunto il buongiorno e soprattutto vi suggerisco sempre di andare su www.rantemeradio.it e cliccare sulla scheda anche io e fare un contributo, dare una vostra presenza, insomma, con una donazione singola, una tantum su PayPal o ricorrente su Patreon, perché comunque Rantem Radio ha sempre bisogno di sostenitori che le danno una mano, in quanto, come sapete, è un progetto totalmente indipendente e amatoriale che non ha fondi al di fuori di se stesso, insomma. Quindi dare una mano, se vi piace quello che facciamo, è un, insomma, un qualcosa che a noi farebbe piacere. Ovviamente non è un dovere, non è una cosa obbligatoria, come sapete perfettamente, altrimenti non staremmo qua, cioè farlo perché voi mettevate dei soldi. Ma detto questo, aggiungo anche che vi suggerisco di andare, ancora una volta ve lo dico perché è stata comunque una soddisfazione, poi non l'ho presentato bene, non ho avuto per ora ancora l'occasione, però è stata una soddisfazione perché è costato diverso tempo di lavoro e soprattutto è stato accolto con grande entusiasmo il famoso documentario che abbiamo fatto sul museo dell'intrattenimento elettronico di Avezzano. Quindi andate su YouTube, cercate Archeologia Informatica. Tra le prime scelte ovviamente troverete, anzi forse la prima scelta, troverete il canale di Archeologia Informatica. Entrate nel canale, iscrivetevi, attivate la campanella, così i prossimi video, insomma, sarete anche informati e guardatevi il video. Ci farà molto piacere se avrete modo di mettere un like e condividerlo, ma in particolare se vorrete mettere ovviamente un commento nel vederlo. Dura 45 minuti all'incirca, quindi insomma sarebbe una cosa carina, ci farebbe veramente piacere. Siamo contenti veramente dell'accoglienza, mille visualizzazioni in pochissimo tempo. E poi ovviamente continua a crescere. Poi ci sono state anche delle critiche, ma quello non ci riguarda fino a un certo punto. Noi quello che facciamo è quello di documentazione, di raccontare quello che succede e quello che fanno le iniziative che fanno tutti coloro che si impegnano alla preservazione. Detto questo, vi lascio col brano del giorno. Qualcuno di voi si sarà accorto che questa per noi è la settimana di Margherita Vicario. Ma vi giuro che questa è l'ultima o la penultima volta che metteremo canzoni della tipa. E io vi lascio con questa. Manila, Praga, Tirana, nasci in Angola, muori in Padania. Ebbene, questa è Mandela di Margherita Vicario, che come tutte le canzoni, perlomeno quelle dell'ultimo album, ma in generale comunque tutte le canzoni di quest'artista, che non sono tantissime perché comunque credo che abbia fatto uno o due album, due album sicuri, non è soltanto questa melodia un po' così spensierata che alla fine accompagna le canzoni, con dentro un testo e un sottotesto che di solito è sempre, insomma, abbastanza interessante. E la cosa bella sono i controcanti, cioè tutte quelle frasi che lei dice comunque tra una strofa e l'altra. E quindi, se vi capita, insomma, riascoltatela la canzone e ascoltatela bene, perché poi alla fine prendo spunto, perché in Runtime Radio succede questo, no? Che nasce una situazione, viene sviluppata da un'altra e alla fine diventa un tema molto più globale. Ed è successo casualmente il fatto che l'altra sera Walter Sbano su Le Orazioni della Sera ha parlato di quell'incidente, chiamiamolo così, insomma, che è relativo a quei ragazzi, quelle persone disabili che hanno avuto quel problema sul treno in Liguria, mi pare che era, adesso neanche mi ricordo la notizia, ma comunque poi l'andiamo un attimo anche a riraccontare. Però nasce casualmente dal fatto che proprio lo stesso giorno, io non l'avevo ancora letto, avevamo determinato quelle che erano le due puntate, anzi no, forse un giorno o due giorni prima, perché poi dopo ne ho parlato anche con Francesco e abbiamo trovato un accordo per un ospite per quando eravamo futuro, non di questa settimana, della prossima settimana, perché avevamo detto sì, dei tanti bellissimi temi che trattiamo, divertenti, quelli che ci fanno ricordare gli anni 60, 70 e 80, ah quanto era bello quando ci mangiavamo le merendine radioattive, ah quanto era bello quando ascoltavamo la musica dalle cuffie e ci spaccavano i timpani, ah quanto era bello vivere nelle case d'amianto. C'erano anche tutta una serie di cose che riguardano meno la Marcord, ma riguardano molto di più la nostra società, no? Il modo in cui questa società è progredita, no? Negli anni. E poi dopo quella notizia che ha letto Walter l'altra sera, chiaramente dici sì, ma progredita che dove? Cioè che vuol dire progredita? È progredita perché quello che succede oggi è un po' il frutto di una sorta di rigurgito, no? Di ritorno, e poi parliamo anche di che cosa di che tipo di rigurgito si tratta, no? Però va sicuro che prima era peggio, perché purtroppo la sensibilità verso determinati problemi è cresciuta insomma negli anni, anche grazie alla TV, anche grazie alla televisione, anche grazie al cinema, anche grazie ai libri, anche grazie alla politica a volte, anche grazie a loro, certo, chiaramente. E questo tipo di sensibilità ha aiutato praticamente le persone a percepire diversamente alcuni problemi, alcuni aspetti. Perché ho messo questa canzone, tra l'altro, di Mandela, cioè nel senso che poi alla fine parla di immigrazione, no? Parla del nostro rifiuto anche verso l'indiano che ci fa la benzina. E mi sono reso conto che questo tipo di problemi, questo tipo di discriminazioni alle quali noi diamo tantissimi nomi, no? Tantissime connotazioni diverse, le categorizziamo, no? Quindi c'è il razzismo, c'è il maltrattamento verso le donne, c'è il appunto la discriminazione verso l'invalido, roba del genere. Ogni cosa comunque viene categorizzata in una qualche forma di connotazione, denominazione, ma soprattutto anche dal punto di vista proprio legislativo, no? Cioè viene comunque, però in realtà se ci pensate tutte le forme di discriminazione sono tutte uguali fondamentalmente, derivano tutte quante da un atavico principio che è dentro di noi, qualcosa che in qualche maniera, non solo culturalmente, ma anche proprio antropologicamente ci porta ad avere una reazione negativa immediata quando vediamo qualcosa che è diverso da noi in generale. Poi la società e la cultura e tutte le sovrastrutture che noi costruiamo hanno aiutato le persone in qualche maniera a evolvere rispetto a questo tipo di sensazione, perché tutti noi, me compreso, abbiamo avuto sicuramente delle reazioni scomposte nei confronti di tante cose. A volte ci hanno fatto ridere, a volte ci hanno dato fastidio, a volte... Però in generale, quando le cose vengono prese, cioè, con tranquillità, e quindi vengono viste come la normalità per certi versi, è chiaro che si può anche ridere, si può anche avere una reazione nei confronti di una certa determinata cosa, però è perché tu comunque l'assimili alla tua normalità, alla normalità di tutti i giorni. Il problema è quando invece questo astio, questa reazione deriva dal fatto che non siamo abituati, no? E come ne abbiamo parlato tante volte, come la prima volta che abbiamo visto noi, della nostra generazione, io parlo di chi come me è nato nel 70, insomma nel 72, la prima volta che abbiamo visto dal vero un uomo di colore, che per noi era una cosa, cioè, oppure io addirittura la prima volta che ci ho avuto in classe un ragazzino di colore che parlava romano, per me era una cosa, cioè, ma che, cioè, era come se avessero preso una persona e gli avessero messo le braccia al contrario, cioè era una cosa, ma come reazione iniziale da ragazzini, così come da persone magari meno evolute pure culturalmente, che non si sono mai posti determinati problemi e che vivono in maniera un po' più semplice, no? la loro esistenza, ci può anche stare come reazione. Il problema è comunque poi essere capaci di educarci a considerare qualsiasi cosa che è intorno a noi come parte integrante del nostro mondo, no? Indipendentemente dal colore o dalla forma del suo corpo, che può essere insomma in qualsiasi modo, no? Quindi ecco, senza andare poi ad approfondire quello che poi di cui parleremo nella puntata di giovedì prossimo, di Quando eravamo futuro, dove appunto cercheremo di raccontare quello che è stato e come, che tipo di progresso c'è stato, se c'è stato poi a un certo punto, è io quello che non, sul quale veramente mi voglio soffermare, perché Mi capacito di meno non è tanto appunto la reazione che puoi avere, no? Perché poi io vi voglio raccontare degli esempi, degli aneddoti che secondo me sono importanti, e quanto poi vedere quanto anche una cosa che a noi lì per lì sembra superficiale è profondamente legata a un atto di discriminazione, anche involontario, perché io non voglio fare per forza quello che si incazza, perché certo, poi sono delle cose che sono inaccettabili, improponibili oggi in particolare, no? Perché vabbè, poi lo vediamo dopo. Però appunto, cioè, a volte basta veramente poco per fare un qualcosa che è profondamente discriminatorio, così come quella cosa che ho raccontato nella premessa. Cioè, per me, che vivevo la metropolitana tutti i giorni e avevo comunque i miei problemi oggettivi nel muovermi magari come facevano gli altri, eppure questa cosa, un certo tipo di condizione posta anche dalla società, alla fine mi limitava i problemi, quindi riuscivo ad essere praticamente tranquillo e agire e muovermi completamente in totale libertà. Però poi alla fine, quando c'è stata quella prima volta, no, questa che io ho già sentito in tantissime altre capitali europee, che c'era lo speaker che annunciava la fermata e la fermata successiva, per me è stato un momento anche di contentezza, perché dovevo sforzarmi di meno a fare cose che magari mi costavano fatica, e invece alla fine la prima reazione che ho sentito a questa cosa era una persona che si è sentita di doversi considerare stupido perché qualcuno gli diceva la fermata. Ora, questa cosa, ragazzi, non è così da sottovalutare, perché è un pensiero comune il fatto che se qualcuno dà un ausilio in più per fare un qualcosa, per accorgersi di un'altra cosa, per vedere meglio un'altra cosa, quella cosa viene vista immediatamente proprio come prima reazione, come il essere associati a un handicappato. Drag Me Down, Conditional, l'abbiamo già messa questa, purtroppo come abbiamo detto le canzoni di Epidemic Sound incominciano a scarseggiare un pochino. Comunque torniamo a noi, Re di Roma, prossima fermata San Giovanni, ah che bello, ah la persona vicino, ma che siamo deficienti, che abbiamo bisogno che scegliete fermate. Allora poi, e questo è il punto focale, l'associazione globale di un atto che è in favore di X numero di condizioni che possono essere anche in, cioè prevalentemente io penso che gli ipovedenti, non vedenti, no, che comunque magari fanno fatica a guardare le fermate, la fermata comunque ti indica, e quindi è una sorta di abbattimento di una barriera architettonica. La persona ha detto ma che siamo ciechi, ha detto ma che siamo stupidi. Quindi praticamente ogni handicap alla fine, qualsiasi esso sia, viene associata poi in generale, questo è una cosa, e questo è un retaggio anche degli anni 70, infatti detto nella puntata di Quando era un futuro di giovedì prossimo ne parleremo, viene associata alla stupidità, perché l'unica vero handicap che eravamo in grado di vedere noi negli anni 70 era il ritardato mentale, quindi quello che noi chiamavamo il mongoloide, perché poi si chiamavano tutti così, cioè noi qualsiasi, il tipo, la persona, che ne so, un po' ritardato mentale, quello era un po' tordo, quello, erano tutti mongoloidi per noi, no? Cioè, nel senso, come cazzo mongoloide, no? Perché, cioè, allora, oh, raga, così era, non è che ci stiamo a raccontare tanto. E quindi praticamente un ausilio in favore quindi un supporto nei confronti di una persona con qualsiasi tipo di difficoltà, ce lo sai, è perché siamo stupidi, cioè perché l'handicap viene identificato come un'anomalia dal punto di vista strettamente mentale, cioè quindi se tu non ci senti sei stupido, se sei muto sei stupido, se non ci vedi sei stupido. Cioè non è che c'hai un problema, ti manca un piede? Sei stupido? E quindi vieni visto come questo altro retaggio culturale, questo post-fascista, viene visto come un peso, perché oggettivamente magari può succedere che alcuni diventano un peso per la società, no? Però poi alla fine è la società che rende comunque un diciamo restituisce indietro quello che purtroppo magari il destino ha levato, no? Se noi viviamo all'interno di un contesto, di una società, e vogliamo che questa società sia civile, deve mettere tutte quante le persone nelle condizioni di poter vivere serenamente, no? Di poter vivere in modo nella migliore condizione possibile. Ecco, questo diciamo è così. Poi dopo ci sono tante anomalie, tante distorsioni, tante cose sbagliate, brutte. Intanto salutiamo DJ Joker, Walter e Michela, che mi sono scordato di salutare, che insomma li ho visti apparire in chat. Questa cosa mi ha sempre colpito, no? Cioè, capito? Da lì in poi, comunque, io poi alla fine mi sono reso conto di tutte quelle volte che ho subito direttamente una discriminazione, cioè nel senso, perché comunque lui non ce l'aveva con me, chiaramente, non ce l'aveva con la metropolitana, però in qualche maniera colpiva me, cioè indirettamente. Poi vuoi che io comunque, come tanti altri, nella vita che hanno dovuto affrontare determinate tipo di difficoltà, vedevamo le cose in maniera anche diversa, cioè ce ne fregavamo fondamentalmente. Però ci sono state magari delle volte che certe situazioni, certe frasi, in certe determinate condizioni ti abbiano fatto riflettere, no? E magari ti abbiano anche offeso, in qualche maniera colpito, magari anche demoralizzato. Però poi alla fine in realtà è più la riflessione verso non il problema nello specifico, ma il problema nel generale, il fatto che comunque le persone non sono abituate a vedere un qualcosa che è in favore di, e questa cosa in qualche maniera li infastidisce. E questa cosa l'abbiamo vista tantissime volte tutti, secondo me, sugli autobus con l'anziano, il posto dedicato all'anziano, all'invalido di guerra o comunque all'invalido e via dicendo, magari posto occupato, perché ma tu chi sei più di me, che chi a me, fammi vedere il tesserino che sei in invalido. Io ne ho viste, ragazzi, io ne ho viste veramente tante. Noi cioè adesso ci attacchiamo a questa ultima notizia, appunto, che ha letto Walter sul treno di questi disabili che avevano prenotato comunque i loro posti con i loro accompagnatori, e questi posti erano occupati e quelli non si sono voluti levare. Che poi lì la cosa grave non è questa cosa qui, che è grave in maniera incontrovertibile, ma è ancora più grave il fatto che l'istituzione in quel momento, quindi Trenitalia e la polizia, non abbiano risolto il problema, perché giustamente è più facile andare a menare i ragazzini in piazza che magari protestano per delle cose, piuttosto che far alzare un normale in favore di una normale, perché vedete che è culturale il problema, non è solo del singolo, è proprio globale, è proprio culturale. Oggi in quell'occasione si è pensato che fosse più giusto risolvere il problema lasciando lo status quo così com'era e prendere un autobus apposito per questi ragazzi e portarli a destinazione, quindi magari farli viaggiare anche più lentamente, anche più scomodamente, senza considerare il fatto che chiaramente c'era un qualcosa che loro hanno pagato e per il quale avevano il diritto, insomma, di usufruire, no? Ecco, allora questa prima immediata reazione alla diversità è una cosa importante, perché qualsiasi tipo di diversità, il colore della pelle, il modo di parlare, il parlare coi gesti, il non vedere, il sentire poco, il far capire alla persona, ogni volta di fronte a queste situazioni la prima cosa che noi proviamo è un senso di, non tanto di rifiuto quanto di disagio, cioè noi abbiamo disagio nei confronti della diversità, e questo è, ribadisco, una questione proprio atavica, proprio dentro di noi, cioè non sarà anche un fattore antropologico più che culturale. Però noi ci aspettavamo il fatto che queste cose progredissero un pochino, e secondo me per una persona comunque come me, che racconta una propria esperienza diretta. Poi ovvio alcuni mi dicono: ah, non è vero perché a me mi è successo questo, ah no perché a me mi è successo questo. Chiaramente è tutta una visione soggettiva delle cose a seconda del percorso che abbiamo fatto. Comunque tante cose sono cambiate, sono migliorate da un certo punto di vista. E quando io alla fine sento tanto accanimento, ma pure io all'inizio, verso tutta questa impronta che magari alcune nuove serie TV vogliono dare verso le diversità sessuali, le diversità razziali, le diversità anche culturali e quindi ovviamente anche verso le disabilità, in qualche maniera facendo conoscere determinati disagi, determinati problemi. È vero che a volte sembra tutto molto così forzato, però è vero pure che più si sbatte, più si sbatte il pugno sul tavolo, e più alla fine la gente lo sente. Perché un po' è anche questo, cioè il dover abituare le persone a concepire il fatto che quella non è una cosa messa lì a forza, ma è una cosa che nella tua vita deve essere la normalità. E qui poi dopo subentra anche il, appunto, come abbiamo detto, anche il nostro percorso personale. Perché io da quando ero ragazzino e ho avuto determinate difficoltà e vedevo chi intorno a me aveva delle difficoltà anche peggiori delle mie, il modo in cui venivano gestiti, ossia non gestiti, ad oggi in cui ovviamente sono molte più attenzioni, molte più strumenti, molte più concezioni dal punto di vista anche scientifico e psicologico e psichiatrico e fisioterapico, comunque strumenti e ausili e dispositivi per mettere quella persona al centro di un mondo nel quale esso vive, che questa è la cosa più importante. E insomma, secondo me, ragazzi, le cose indubbiamente sono cambiate. Glitter Gutter, la canzone che stavamo sentendo, sono sempre i Conditional, quelli di prima, che però come sapete non si sa per quale ragione fanno collaborazioni con tutti e quindi ogni volta cambia cantante, la cantante, quello che è, insomma, è proprio un atto di discriminazione pure questo verso lo speaker che non li conosce, non sa come disannunciarli, diciamo così. E vabbè, Walter poi ci faceva presente che la situazione è stata ricostruita un po' diversamente, ma questo non faccio fatica perché a crederlo, perché i giornali poi veramente marcano sempre su queste cose, tra l'altro pensando magari di fare una cosa utile o semplicemente perché comunque fa clamore, quindi magari lì hanno rosicato, quello che volete, però insomma in generale quando poi alla fine si fanno queste esagerazioni narrative in realtà non si fa un favore, ma si crea ulteriore motivo di discriminazione, soprattutto quando poi alla fine gli elementi raccontati non sono la verità, insomma, fondamentalmente. Certo, resta sempre il fatto, come dice giustamente Walter, che nessuno ha ritenuto insomma moralmente necessario dover lasciare il posto a sedere alle persone che comunque magari aspetta, insomma, o che comunque hanno delle difficoltà. E questo rientra un po' su quello che è il simbolo, non tanto appunto di questa estrazione culturale di cui parlavo, ma quanto della situazione politica che stiamo vivendo in un paese che è stato immerso come un grosso biscotto nel latte, dove il latte è il benessere, quindi siamo stati immersi in una grossa tazza di benessere, e questa tazza di benessere ha fatto uscire fuori la parte peggiore della nostra umanità, no? Perché comunque il benessere ci porta all'egoismo, alla non condivisione, al rifiuto, al razzismo, ma prevalentemente all'egoismo. Cioè l'egoismo diventa l'elemento che viene cavalcato da alcuni aspetti della politica, dove praticamente anche nel degradare sempre di più un certo tipo di linguaggio, che diventa sempre più razzista, sempre più discriminatorio dal punto di vista istituzionale, ovviamente le persone in questo momento si sentono, quelle persone che sono profondamente influenzate da quel tipo di impronta culturale e politica, si sentono ovviamente in diritto di dover comportarsi, non solo esternare, perché dicevo, lo dice, come abbiamo detto tante volte, lo dice Salvini, lo dico pure io, no? Cioè, nel senso, ovviamente legittimando e sdoganando questo tipo di comportamento. Invece in realtà la cosa assume connotazioni ancora peggiori quando poi ovviamente oltre alle cose che tu dici subentra anche il fatto di quello che tu pensi e di dover fare, quindi di il tuo comportamento, cioè nel senso, io metto in applico questo mio atto discriminatorio perché ritengo che sia giusto così, prima gli italiani, così metto, cioè, ma come, quelli sono persone disabili e allora prima gli abili. Fateci caso, perché ovviamente in questa cosa che è sempre stata latente, che c'è sempre stata, non è che adesso perché c'è la Lega o c'è Fratelli d'Italia questa cosa è quando prima non era, questa cosa c'è sempre stata, è sempre stata lì latente, come tanti comportamenti e tante reazioni delle persone che però magari erano, come posso dire, ristrette all'interno di determinati contesti dove ovviamente non c'erano magari social network e via dicendo, no? L'atto di discriminazione, ecco, poi diventa sistemico, diventa comportamentale, diventa un elemento a fondamento della nostra quotidianità, e quando tu non dai il tuo posto a sedere, perché poi io veramente su questa un po' è la cosa che a volte me lo domando, però evidentemente è una domanda anche stupida, mi rendo conto, no? Cioè, ma quando tu non dai il posto a sedere a una persona disabile e torni a casa da tua madre, da tuo padre, che magari un giorno potranno avere lo stesso tipo di problema, da tuo figlio, dai tuoi parenti, che tra i quali sicuramente ci sarà qualcuno con una disabilità, perché non è poi così raro, ci sarà sempre qualcuno con dei problemi, con che faccia guardi tutto il resto del mondo, no? Che ti senti dentro? Ti senti talmente nel giusto da essere sereno? Perché questo è un po' che io mi domanderei. Io queste persone, devo dire la verità, questa è una cosa molto contro la mia cultura, però queste persone, piuttosto di prenderle e portarle tutte a processo, e andrebbe fatto, perché comunque secondo me comunque, come posso dire, una punizione esemplare bisognerebbe darla, perché una volta le persone avevano paura di comportarsi male in una certa maniera, perché avevano paura delle conseguenze. Oggi hanno visto che le conseguenze non ci sono mai delle conseguenze, e quindi questa cosa può andare solo che a peggiorare, chiaramente, no? Quindi prende queste persone, mettere dentro una stanza con le telecamere accese e fargli questa domanda 100 volte fino a che non ne possono più, e gli fai: ma tu quando torni a casa, che quando sei tornato a casa che non ti sei alzato per dare posto al disabile, che cosa ti sei... Ma tu gliela ripeti la domanda e loro ti ripetono. Ovviamente... quasi una tortura deve essere, capito? Cioè, nel senso, perché a un certo punto ci deve essere un sistema. Se non ci arrivi con l'educazione, se non ci arrivi con la sensibilità, ci devi arrivare col condizionamento. Perché non è accettabile che una persona non si alzi per dare il posto a un disabile che ce n'ha diritto, perché quel posto magari è il suo. Ma questo io ribadisco, sono cose che ho visto decine di volte nella mia vita e a volte le ho anche subite queste cose. Perché? Perché c'è, perché l'abbiamo detto. Poi dopo, ovviamente, ho detto, oggi la situazione è anche politica, no? Perché mentre prima magari c'avevi l'amico in classe, c'avevi il compagno di classe che magari era down, oppure era ritardato in qualsiasi cosa, cascavano le cose, sbavava e via dicendo, e tu c'avevi il fastidio di questa cosa perché ti dava fastidio, ma perché nessuno supportava te e nessuno supportava lui, e quindi eri lasciato allo sbaraglio in questo tipo di contesto. È un discorso, ma ovviamente oggi non è quello. Non è più neanche quello il problema. Il problema è che oggi ci sono delle forze che sono preposte e pagate per la disgregazione della società. E per disgregazione della società si inizia dal basso. Si inizia dal donna va a cucinare, a negro c'hai rotto i coglioni, ah guarda questo è un carosella, ci sta a far tardi a tutti. Fino ad arrivare ovviamente a quel famoso caso della Ryanair, del tizio che l'hanno dovuto far scendere, l'hanno pure mezzo maltrattato, perché Ryanair non contempla il fatto che... Ragazzi, è una cosa triste forte, perché alla fine ogni volta che noi facciamo una battuta, facciamo una frase e lo facciamo anche per essere politicamente scorretti, per essere divertenti, perché ci sta che sia anche così, però ci dobbiamo sempre rendere conto che vedere un semaforo più luminoso, oh ma che è sta roba, mi cieca l'occhi, no? Cioè, nel senso, a volte, ma perché poi dopo io oggi dico, ma ragionateci, ma in realtà no, è sbagliato pure questo, perché già se ci dovete ragionare vuol dire che ancora non vi è arrivato questo messaggio, ancora non siete sullo stesso piano. Cioè, questa è la cosa che a me mi traumatizza di più, il fatto che comunque dobbiamo stare lì ogni tanto a ripetere il fatto che ci stanno delle persone che hanno delle difficoltà e che hanno il diritto, oltre che il dovere, di essere al centro del loro mondo e di poter fare cose che altrimenti non avrebbero potuto fare. E quindi, ah, ma quanti soldi si spendono per comprare quello, ah, per quell'altro, ah, ma che gli dà tutto lo Stato gratis, ah, mo quello c'ha la macchinetta, vedi, sta comodo lui. Ma come sta comodo lui? Ma come ti viene in mente? Come ti viene in mente, brutto imbecille che non sei altro? Sta comodo lui. Dice, vorrei sta a te tutta la vita su una carrozzella senza sapere come ti pulisci il culo, come caghi, chi ti aiuta a pulire, a fare il bidet, a sciacquarti le palle, a pisciare. Ma abbiate rispetto della dignità delle persone e mettetevi nei loro panni, perché quello è l'unica maniera per riuscire a capire di che cazzo state a parlare. Se no, un giorno io entrerò in politica e mi lotterò per far passare una legge dove c'è i 6 mesi obbligatori di invalidità per tutti. Quindi fate attenzione. Vabbè, questa è il Musicas che su Epidemic Sound mi viene segnalato come brano cantato. Ma in realtà siete voi che non la sentite, perché c'è sotto questo che canta, però canta in ultrasuoni e quindi ecco, la Scozia lo sente ma voi non lo potete sentire, quindi è un vostro problema. Siete voi che siete handicappati e non riuscite a sentire il tipo che canta, non è mica colpa di nessuno. E quindi cazzi vostri, insomma, morite nella vostra sordità e vi perderete questo bellissimo testo che canta il tizio sotto, che si chiama Il Musicas, con questa canzone che si intitola The Last of Rock and Roll, che poi vabbè fa anche schifo, tutto sommato, quindi non mi stanno a perdere niente. Comunque, dicevamo che questo è un tema che voi sapete che a me è caro, quindi è inutile. E secondo me io dedicherò il prossimo mese a fare vari appuntamenti dove parleremo di questa cosa. E già appunto giovedì prossimo, come ho detto, ne parleremo quando eravamo futuro, anche grazie a Francesco che ci ha portato l'ospite. Poi vi spiegheremo, vi racconteremo, insomma, perché, per come, per quando. E poi secondo me invece sarebbe carino di fare delle puntate, magari anche con qualcuno che chiaramente sia in grado, insomma, di interagire, in modo che ci racconti poi la sua esperienza, no? Saranno delle puntate magari più complicate, magari più difficili da ascoltare, ma sono delle cose che uno strumento come Runtime Radio non solo dovrebbe fare, ma deve fare, ha il dovere, non il diritto, perché noi che abbiamo questo tipo di sensibilità, che abbiamo questo tipo di strumento che abbiamo messo in su, che magari ci ascoltano in 10, che è quello che volete voi, comunque noi abbiamo il dovere di parlare anche di queste cose, perché non ne parleranno mai da nessun'altra parte se non in determinate situazioni e determinati contesti. E spesso, come succede sempre in qualcosa di particolarmente specifico che esula dalla normalità, perché vedete le virgolette, se ne parla sempre male, e questo è un dato di fatto indiscutibile, proprio incontrovertibile, perché è il nostro modo di agire nei confronti dei discorsi che vogliamo semplificare e banalizzare per renderle comprensibili a tutti, e in realtà facciamo una merda. Di solito è proprio la merda grossa e fumante che trovate in mezzo al campo di mucche durante l'inverno, insomma, perché se è fumante vuol dire che fa freddo, insomma. E questo è un po' il coso. E io avrei voluto anche raccontare tanti aneddoti, tanti esempi, insomma, che ho vissuto anche io personalmente, però poi non è che deve diventare per forza una trasmissione personale dove io faccio outing nei confronti dei miei disagi o delle mie limitazioni oggettive, perché io devo dire la verità. E questo, grazie a Dio, vale per tantissime persone che ho conosciuto. Ho sempre avuto, forse ero obbligato a vedere la vita in maniera positiva, ok? E questa cosa non è stata un male, è stata un bene, perché mi ha aiutato comunque a scavalcare il problema e non ad arenarmi, non sentirmi in difficoltà, non sentirmi l'ultimo, quello dopo, quello che viene dietro. Questa cosa è forse la cosa della quale sono più orgoglioso nella mia vita, del fatto che comunque ho sempre guardato positivamente le cose e ho sempre lottato in maniera tale che questa positività si esprimesse in energia. Per vantarmi un po' di quello che è stata la mia vita, io la associo al film Gattaca, che conoscete, ve l'ho detto tante volte, chi mi ascolta, chi mi è amico comunque in qualche maniera sa che per me quel film è molto sottovalutato. Alla fine comunque è una sorta di simbolo, di manifesto di un certo tipo di ragionamento, di modo di vedere le cose, ossia di quelle persone che non sono destinate a fare quella cosa, ma che impegneranno 3 volte la loro energia per riuscire a raggiungere quel tipo di obiettivo. E c'è questa frase alla fine tra il protagonista e il dottore, non vi spiego il contesto perché poi ve l'ho andato a vedere, dove lui comunque gli dice che come lui le persone che ci hanno provato nella vita erano tantissime, quelli che ci sono riusciti forse un po' di meno, no? Può sembrare elitaristica anche questa, tipo come affermazione, e lo è senza dubbio, ma questo non significa che gli altri sono minori o meno meritevoli, però che se tutti avessimo avuto questa impronta in qualche maniera, questa positività, questo fuoco che brucia dentro di te per arrivare a raggiungere il risultato, come dicevo sempre io, la mia prima fatica era arrivare al livello degli altri, la seconda fatica era superare gli altri in qualche maniera, e poi forse il mio carattere, il mio modo di essere, magari quel pizzico di carisma. Nella mia vita in 50 anni mi sono trovato sempre in situazioni tra virgolette di leadership. Oggi chiaramente non ho la stessa forza, la stessa energia, no? Però quante esperienze ho fatto io, quanti gruppi ho coordinato, quanti gruppi anche di lavoro che ho coordinato, perché avevo comunque questa indole, no? Questo modo di essere, quella cosa che compensa quei limiti e che fanno accettare le persone che ti seguono in qualche maniera di dover naturalmente compensare il tuo limite rispetto a quello che è l'obiettivo comune. Quindi alla fine la positività è un elemento fondamentale, e tutte quelle volte che trovate la persona seduta accanto a voi che si lamenta del fatto che lo speaker della metropolitana dice la fermata, la prossima fermata, domandandosi ma che siamo tutti scemi, rispondetegli con un sorriso, che forse è la cosa meglio. Vabbè, Epidemic Sound, rotto il cazzo, costi pure un sacco di soldi al mese, quindi quando dai le informazioni dalle bene, perché sennò te bestemmio a te come ho bestemmiato a Spreaker in altre occasioni per altre ragioni, insomma, perché quando io pago pretendo che le cose siano come devono essere, no come dici tu, perché mannaggia siamo sbagliati, capito? Perché non è che costi poco, capito? Soprattutto a Runtime Radio, comunque quei 10, 11, 12, 15 euro al mese non è che gli fanno proprio schifo, capito? E quindi io te ne levo e torniamo a Giamendo e sti cazzi se poi le canzoni fanno schifo, ma almeno se c'è scritto che è una canzone, poi dopo c'è Zipeppe che è in cariola che canta e via dicendo. C'è un messaggio di Francesco, io quasi quasi lo passo, oh, vediamo un attimo, vediamo un secondo, aspettate, perché qui devo fare prima un'operazione che è questa qua, questa la levamo perché tanto fa schifo, e poi devo rifare così, poi devo fare colà e poi su e giù, non so il volume, però vediamo un attimo. Comunque Simone, è tutto bello, tutto giusto, tutto meraviglioso, però sta storia mi ricorda un pochino quella che critichi sempre, del tizio che si lamentava che ha letto sui social dei satanisti a Milano, che dice che schifo, e tu che gli scrivi ma guarda non è vero, che schifo comunque, vale il principio. Sto facendo un po' la stessa cosa, nel senso che su un fatto che non è andato così ci ha costruito tutta la puntata dicendo che schifo comunque, però ha ragione, perché effettivamente di situazioni di discriminazione eccetera eccetera ce ne songo tutte, e comunque viva Gattaca, ce ne songo tutte, va bene. Ma io non ho costruito la puntata sull'episodio, l'ho citato perché l'aveva letto Walter, e come ho detto, specificando anche all'inizio della puntata, che non avendolo letto non mi ricordo neanche dove è successa questa cosa, ma il principio in questo caso è corretto, perché vabbè, quella è un'assurdità. Il principio è sempre quello, perché come tu sai bene, e forse lo sai meglio di me, ogni volta o tante volte che ci sono di mezzo queste organizzazioni, queste cose, il dover spostare delle persone con determinati problemi dal punto A al punto B, ci sono sempre dei cazzi. Sono sempre dei cazzi, e questo perché? Perché non solo non siamo preparati, E che non ce ne frega un cazzo, poi fondamentalmente, che questo è forse il succo finale dell'intero episodio. Bene ragazzi, io comunque sapete che vi dico, alla fine ve l'ho raccontata, io sapete che metto in Buongiorno un cazzo anche aspetti importanti della mia vita, cose che fino adesso non ho mai fatto così esplicitamente e così pubblicamente, se non con le persone che conosco. Perché? Perché ritengo che c'è un momento della nostra vita che, se riteniamo di aver concluso qualcosa, di aver fatto qualcosa di positivo, che ci sia un elemento giusto che noi possiamo raccontare rispetto a quelle che possono essere state le nostre difficoltà, è anche un po' un nostro compito quello di lasciare un po' la nostra testimonianza, no? A chi l'ascolta, se qualcuno lo dovesse ascoltare. Se così non dovesse essere, ragazzi, noi abbiamo fatto il nostro meglio e sti cazzi anche un pochino, no? Perché a volte c'è anche questo. Detto questo, io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo di andare su Archeologia Informatica su YouTube, guardare il nostro documentario, dura 45 minuti, l'ultimo video è il documentario sull'intrattenimento digitale, il museo di Avezzano, ed è piacevole, insomma, secondo me è un bel, abbiamo fatto un bel lavoro, soprattutto grazie a tutta l'ottima accoglienza che abbiamo ricevuto. Mettete like e condividetelo, che è sempre una cosa buona, iscrivetevi al canale in modo che, insomma, il canale continui a crescere, visto che anche lì piano piano comincia a fermentare qualcosa sotto. E se volete, su www.runtimeradio.it c'è l'opportunità di fare una donazione a Runtime Radio, tramite PayPal come donazione una tantum, o tramite ricorrenza su Patreon, insomma, se volete dare il vostro contributo. A noi ovviamente non solo ci fa piacere, ma ci aiuta tantissimo. Detto questo, spero che sia una buona giornata del cazzo per tutti, per me sicuramente lo sarà, perché oggi è una giornata veramente che me lo dà tanto il culo, per altre ragioni, e quindi niente, ciao e grazie di essere stati qui con me a Buongiorno un cazzo.